Ok, allora in piazza per l'8 marzo, voi siete di una scuola? Siamo del Benedetto della Norcia e altri collettivi di Roma Est, quindi Tullio Levi Civita, Del Croce, Buratti, insomma rappresentiamo i collettivi di Roma Est. Ok, perché avete scelto di aderire oggi alla giornata? Abbiamo scelto di aderire per richiedere un'educazione sesso-affettiva che si basa sul consenso, perché siamo stanchi della cultura patriarcale radicalizzata che si trova anche nelle scuole, quindi siamo stanchi di andare in una scuola che non è sicura e diciamo rivendichiamo la morte anche di tutte quelle donne che purtroppo non sono qui e quindi siamo una voce anche per loro. Ma voi a scuola vi siete organizzate, avete un collettivo di ragazze e studentesse? Sì, abbiamo un collettivo di studentesse e studenti che diciamo si battono per i nostri diritti e i diritti insomma di tutte le persone e quindi ci siamo organizzati, abbiamo fatto dei collettivi in cui abbiamo parlato di questa giornata e anche delle future e in cui abbiamo appunto organizzato degli striscioni, dei cartelloni da poter portare alla manifestazione. Va bene, grazie. Grazie a te.